24 mattino di Alessandro Milan. Buongiorno cari ascoltatori, sono le 7:21 e 40 secondi, vi dico anche i secondi perché così avete capito che siamo in diretta anche oggi 8 dicembre, c'è anche Carmelo Lauricella in regia, abbiamo mandato l'alpino Peter Bescapè dove? Sui monti, non lo so, monti nel senso di montagne. E allora siamo qui, Oggi parliamo alle 8:30, parleremo di un libro che si intitola Scurriculum, esce proprio oggi, è il racconto dell'Italia, il paese dei raccomandati, no? Quello dove c'è la meritocrazia, lo sapete, io quando sento la parola meritocrazia in bocca a chiunque, cioè mi viene l'orticaria in Italia. Va bene, parleremo di questo più avanti, intanto però i giornali che oggi sono regolarmente in edicola. Giovedì 8 dicembre, intanto i titoli. Si parla di pensioni, soprattutto pensioni rivalutate fino a 1.400 euro, così è il titolo del Sole 24 Ore. Un po' tutti i giornali si concentrano su questo, salvare le pensioni fino a 1.400 euro anche per il Corriere della Sera, così Repubblica. La Stampa, il Secolo XIX, per vedere un titolo diverso, Libero, la beffa delle province. Cari ascoltatori, iniziamo proprio da qui, la beffa delle province. Ne abbiamo parlato ieri e ieri avevamo detto che non c'è più questa data del 30 aprile 2012 in cui decadranno le giunte, decadranno gli assessori. Perché? Come ieri svelava il quotidiano Italia Oggi, come ieri ci ha raccontato anche questo ricercatore dell'Istituto Bruno Leoni, effettivamente c'è questo comma. I commi compaiono sempre nottetempo. I commi compaiono quando uno meno se l'aspetta. Arrivi quasi al traguardo, c'è sempre un comma in Italia che compare in una legge e cambia le carte. Quando uno già pregustava un qualcosa che stava per arrivare. Un comma rinvia i tagli alle province. Così Sergio Rizzo a pagina 16 del Corriere della Sera, un'intera pagina, il comma comparso è quello che prevede che ci sarà una legge dello Stato successiva che definirà i tempi per far decadere gli organi delle province. Scrive Sergio Rizzo, l'importante è che questo imprevisto non diventi la pietra tombale dell'operazione, compromettendo la vera sostanza del provvedimento, cioè il trasferimento delle competenze provinciali a comune e regioni entro il prossimo 30 aprile. Libero titola così, il prof si rimangia il taglio delle province. Il Fatto Quotidiano, il miracolo delle province, da sempre intagliabili. Il Giornale, Monti diventa subito un politico, una bufala Italia alle province. Staremo a vedere, noi siamo sempre ottimisti, siamo sicuri che ci sarà questo taglio alle province, dopodiché vedremo. Ieri aveva fatto molto scalpore, l'avevo raccontata la vicenda, qualcuno mi ha anche scritto, di questo signore che quando ha scoperto che il decreto Salva Italia in pratica faceva uscire fuori corso le lire e aveva accumulato 700 milioni di vecchie lire, i risparmi di una vita, si è fiondato alla Banca d'Italia di Genova per cambiarli, ma nel farlo si è portato dietro una pistola perché temeva che qualcuno gli rubasse questi 700 milioni, che gli è caduta nel momento in cui è entrato in banca e quindi è stato arrestato. È la vicenda che oggi il Secolo XIX racconta più nei dettagli, a pagina 8, il droghiere che dice «Io sono onesto, semplicemente non mi fido delle banche». Eccolo qui, tanto di foto, è uscito dal carcere, è andato a casa, certo rimane sotto inchiesta perché si è presentato con una pistola alla Banca d'Italia, Giuseppe Mariani, ma ormai è chiaro che non voleva fare una rapina, semplicemente temeva di essere rapinato. Giuseppe Mariani, il droghiere di un paesino del Basso Piemonte, 700 milioni di vecchie lire voleva cambiare, ma per la paura di perdere quel tesoro si era portato una pistola che proprio gli è caduta dalla tasca di fronte alla cassa davanti a una commessa esterrefatta. La buona notizia per lui, che è definito come un pitocco incredibile, e tra l'altro è anche uno che è uscito dal carcere alla prima domanda di un cronista sventurato di Mediaset che gli ha chiesto come va, come va, boom, gli ha tirato una cuscinata in faccia chiedendo ai carabinieri: guardie, mandate via i giornalisti. Pare che sia una persona un po' irascibile. La buona notizia per lui è che non perderà i risparmi di una vita, non perderà i risparmi di una vita. Infatti, per il cambio farà fede la data della distinta, compilata un attimo prima di essere fermato quando gli è caduta la pistola dalla tasca. Davvero incredibile. Io sono onesto. Non mi fido delle banche, semplicemente questa è stata la spiegazione del perché avesse accumulato 700 milioni di vecchie lire in casa. Vabbè, è una storia che finisce bene, ecco, una disavventura, non perderai soldi. Certo, ora deve pagare l'avvocato, e scrive il secolo XIX, l'avvocato quello lo deve pagare, e tra l'altro l'avvocato è la figlia, Giulia Boccassi, figlia di Mario Boccassi, il legale di Erika De Nardo. Insomma, ha deciso di spendere abbastanza bene, in modo che per una volta chi meglio spende meno spende, come dice il detto, si può fare almeno una volta nella vita, no? Qualcosa costerà, ma salverà 700 milioni di vecchie lire. E allora siamo qua alle 7:32 minuti a parlare della manovra, che ancora la manovra o il decreto Salva Italia che ancora prende gran parte di tutte le pagine di apertura dei quotidiani. Intanto la novità riguarda soprattutto le pensioni. Si è fatta larga e fatta strada questa idea in commissione lavoro alla Camera, che dovrà discutere e convertire in legge il decreto, di rivalutare le pensioni fino a 1.400 euro, vale a dire alzare quella soglia che garantisce l'indicizzazione per le pensioni, che è stata fissata a 936 euro, cioè sopra quella soglia non c'è l'indicizzazione delle pensioni. Secondo il decreto Salva Italia si vuole alzare questa soglia a 1.400 euro. Pensioni e ICI, stretta meno pesante, così titola pagina 3 Il Sole 24 Ore, con Marco Mobili e Marco Rogari, che raccontano del salvataggio dalla deindicizzazione anche delle pensioni superiore alla soglia di 1.400 euro, equivalente a tre volte il minimo, ma anche aumento dell'attuale franchigia di 200 euro legata all'IMU sulla prima casa, almeno per le fasce di reddito più basse. Questi sono alcuni dei provvedimenti che potrebbero passare in fase di conversione del decreto Salva Italia. Tra l'altro, Davide Colombo, a pagina 10, fa un po' di calcoli di cosa vorrebbe dire se si alzasse a 1.400 euro il livello sopra il quale c'è l'indicizzazione della pensione, sotto il quale c'è l'indicizzazione della pensione. Rivalutate 11 milioni di pensioni. Con questa ipotesi di indicizzare fino a 1.400 euro sarebbero 4 milioni in più i pensionati garantiti, un dato grezzo certo che comprende i pensionati tutelati dalla cosiddetta clausola di garanzia che oggi il decreto prevede per assicurare un ritocco parziale agli assegni, ma certo sarebbero 4 milioni le pensioni in più garantite. C'è da dire che a questa proposta il ministro Fornero e il vice ministro al lavoro Michel Martone hanno detto: va bene, siamo disponibili, ma questa proposta ovviamente costa. E una cifra attorno ai quasi 3 miliardi di euro, 2,8 miliardi di euro. Cioè, se alziamo la soglia sotto la quale indicizziamo le pensioni, ci vogliono 2,8 miliardi di euro di maggiore sborso da parte dello Stato. Va bene, facciamolo, basta che ci sia una copertura, cioè questi 2,8 miliardi di euro dobbiamo trovarli da qualche altra parte. Allora iniziano i discorsi su come si possono trovare questi 2,8 miliardi di euro. Roberto Bagnoli ne scrive a pagina 3 del Corriere della Sera: l'idea potrebbe essere abbassare la soglia di tracciabilità del denaro, fissata attualmente a 2.500 euro, spostata a 1.000 euro dal decreto Salva Italia. L'idea potrebbe essere abbassarla quella ancora a 500 euro, oppure aumentare il prelievo sui capitali scudati. Per la verità è un prelievo aggiuntivo, cioè già i capitali scudati sono rientrati con un prelievo nel condono fiscale. È stato ammesso un altro, credo 1,5% aggiuntivo sui capitali scudati, si potrebbe aumentare questa percentuale. E ancora ritorna in discussione la questione dell'ICI e degli immobili del Vaticano, ma questo è un dibattito ben più ampio che vedremo tra poco. Oppure, che dire, seguire la Germania sulla strada di fare un accordo con la Svizzera sui capitali esportati illegalmente. Su questo però c'è da dire che subito è arrivato un no abbastanza perentorio da parte del ministro dei rapporti col Parlamento Pietro Giarda, che rispondendo ieri a un'interrogazione dell'Italia dei Valori di fatto ha detto: per fare questo accordo con la Svizzera, come hanno fatto Germania e Gran Bretagna, al momento lo escludiamo perché rischieremmo delle sanzioni dall'Unione Europea. Su questo il Fatto Quotidiano è durissimo. In prima pagina il titolo è: decreto salva Italia, salva evasori e salva Mediaset. Questa invece è la vicenda delle frequenze TV che verranno affidate grazie a un beauty contest, un concorso di bellezza, e non con un'asta normale in cui vince chi offre di più. Beh, il titolo a pagina 2 del Fatto Quotidiano è: non aprite quel forziere. Il governo dice tassare i soldi portati in Svizzera? Non se ne parla. E quindi c'è questa cosa per cui i conti in Svizzera degli italiani al momento possono dormire sonni tranquilli. Ovviamente classico lapsus, così scrive anche il Corriere della Sera. Per il momento, secondo il ministro Giarda, non ci sono gli estremi per fare un accordo, perché si rischierebbe un'infrazione da parte dell'Unione Europea. Sta di fatto che questa manovra scontenta un po' in maniera bipartisan molte persone, da destra a sinistra. I sindacati per la prima volta dopo 6 anni sciopereranno lunedì in maniera unitaria. E c'è un'intervista alla leader della CGIL Susanna Camusso sull'Unità, pagina 4 e 5, Susanna Camusso, che è molto dura. Non è una bella ricetta dire salvo il paese e ammazzo la popolazione, così esordisce in questa intervista sull'Unità. Mi pare che non sia cambiato nulla, credo che qualche effetto abbia suscitato la ritrovata unità dei sindacati, si torna a far cassa colpendo i lavoratori, si torna a far cassa neppure senza porsi l'obiettivo in ragione di una maggiore equità di aumentare ad esempio le aliquote contributive per gli autonomi o per i coltivatori diretti. E ancora sulle pensioni, non faccio nomi, dice la Camusso, ma un parlamentare non certo di sinistra in corridoio mi ha sussurrato: sono sempre stato un ammiratore della Thatcher, ma una riforma di questo genere non sarei mai riuscito a immaginarla neppure io. Vuol dire che siamo andati oltre i limiti, e oltre i limiti c'è la persecuzione. Pensiamo a quei lavoratori a metà del guado, dipendenti da un'azienda in crisi, alle soglie della pensione. Cosa ne facciamo? Ne facciamo dei disoccupati nell'età più difficile per rientrare in un'azienda? E ancora sulla soglia di tracciabilità, 1.000 euro sono una soglia troppo alta. E poi bisognerebbe poter mettere in piedi una rete efficace di controlli, incrociando dati. L'1,5% sui capitali scudati sembra un'inezia. Insomma, tutte queste sono le rimostranze della leader CGIL Susanna Camusso, intervistata dall'Unità. Oh, io ieri ho dato questa notizia che Italia Oggi aveva sparato in prima pagina sulla questione: i conti correnti dal 1 gennaio 2012 finiranno direttamente anche in copia all'Agenzia delle Entrate. Ieri ho ricevuto qualche telefonata allarmata di conoscenti che mi hanno detto: ma è davvero così? Perché? Ma sei sicuro? Io ho detto: beh, ho letto sui giornali, anch'io come voi. Ieri ho parlato anche con due conoscenti che lavorano in banca, uno è direttore di filiale di banca, e mi ha detto: no, ma questa cosa non la sappiamo. Eppure anche oggi i giornali continuano, e voglio dire, e ormai evidentemente c'è un non so che di vero in tutto questo. Alle entrate i controlli sui conti correnti, questo è il titolo a pagina 12 del Sole 24 Ore, è il pacchetto antievasione previsto dal decreto Salva Italia. Le movimentazioni dei conti e non soltanto gli estremi dei rapporti, perché per ora veniva dato solo il numero del conto all'Agenzia delle Entrate, mentre ora le movimentazioni dei conti confluiranno nell'anagrafe tributaria e potranno essere utilizzate dal fisco sia per i controlli sia per l'individuazione di contribuenti a rischio di evasione. Ne parla Antonio Iorio a pagina 12 del Sole, ma guardate il Corriere della Sera a pagina 13: così il fisco leggerà l'estratto conto, al setaccio i movimenti in banca. Repubblica, pagina 4. Dal 1 gennaio, addio al segreto bancario. L'estratto conto sarà inviato anche al fisco. E allora, cari interlocutori, mi sa che è proprio così. C'è anche un'intervista al garante della privacy, presidente dell'autorità garante della privacy, Francesco Pizzetti, che a pagina 4 di Repubblica dice: sicuramente avremo una compressione molto forte della privacy, ma se lo prevede una legge dello Stato non è una violazione. Però attenzione, perché un trasferimento così massiccio di dati pone un grosso problema di sicurezza. Segreto bancario azzerato, più che azzerato, condiviso con l'Agenzia delle Entrate. Per qualcuno potrebbe voler dire azzerato, per l'appunto. Evidentemente, certo, addio privacy, siamo in una situazione molto pericolosa, ma se c'è una legge la privacy è garantita. Certo, il rischio: occorrerà attivare misure di sicurezza molto forti e significative, direi quasi senza precedenti. Il timore è quello infatti di una fuga di dati fiscali, come avvenne nel 2008, vi ricordate, quando poi furono pubblicate per qualche ora su internet tutte le dichiarazioni dei redditi di tutti gli italiani. Ma non si deve ripetere quella vicenda, scrive e dice Pizzetti in questa intervista a Repubblica, intervistato da Valentina Conte. Il dato di fatto è questo, cari italiani: dal 1 gennaio copia del conto corrente all'Agenzia delle Entrate e in bocca al lupo a tutti. Come detto, la vicenda invece dell'ICI e del Vaticano, dei presunti privilegi, lo dico così, presunti, perché, cari ascoltatori, in questo dibattito, tra l'altro lo preannuncio, domani ne parleremo perché non se ne può più, vogliamo fare un po' di chiarezza. In questo dibattito c'è veramente una guerra tra, si potrebbe dire, Guelfi e Ghibellini, o tra clericali e anticlericali. Ci sono posizioni veramente troppo di barricata. Poi il nodo in questione, cercheremo domani di spiegarlo, qual è la normativa che prevede tutto questo. Certamente ci sono delle cose su cui discutere, ma bisogna farlo vedendo le cose in maniera compiuta, non prendendo posizione a priori e subito sparare la propria idea. Intanto Avvenire, che ieri ha pubblicato con Marco Tarquinio, il suo direttore, un editoriale in prima pagina, oggi fa una scelta editoriale singolare sicuramente, e cioè quale? Marco Tarquinio, il direttore di Avvenire, ripubblica pari pari lo stesso intervento di ieri, dal titolo La vergogna dell'ICI, con questa premessa: c'è chi addirittura l'ha descritta come una fatwa, cioè una sentenza religiosa islamica, chi perfino due leader di partiti ha continuato a ripetere che le attività commerciali della Chiesa non pagano l'ICI. Pubblichiamo allora una seconda volta l'editoriale dedicato ieri all'argomento, sotto la dicitura ripetita Juvent. Ecco, per esempio, una cosa si può dire: questa frase, le attività commerciali della Chiesa non pagano l'ICI, dire questo è effettivamente una vergogna. Non è così, le attività commerciali della Chiesa pagano regolarmente l'ICI. Però certo, questo dibattito è molto affrontato dai giornali. Ci sono delle esenzioni invece di alcuni, di diversi immobili che appartengono alla Chiesa Cattolica, così come a tutte le altre confessioni religiose, così come ai sindacati. È la stessa legge di cui usufruisce nei benefici la Chiesa, ne usufruiscono anche i sindacati. Di questo invece si può parlare, di queste esenzioni, se siano giuste oppure no. Gli edifici della Chiesa, le regole sull'ICI, così anche a pagina 17 del Corriere della Sera. Repubblica fa un'inchiesta di due pagine, 12 e 13, la Chiesa, palazzi, scuole, alberghi, ospedali, tutti gli immobili di Vaticano S.P.A. Anche il Secolo XIX, offensiva sull'ICI, la Chiesa ha paura. C'è su questo tema un'intervista a Graziano Del Rio, che è il sindaco di Reggio Emilia, ma anche presidente dell'ANCI, quindi dell'Associazione Comuni, intervistato dall'Unità, pagina 11, da Alessandra Rubenni. Dice: ICI per la Chiesa, subito va fatto un censimento e una legge più chiara. Il nodo è questo, dice Del Rio, non si tratta della volontà o meno di far versare l'ICI alla Chiesa, il punto sono quei casi che il decreto Bersani, varato sotto il governo Prodi, ha definito di carattere parzialmente commerciale e che godono dell'esenzione. Se il proprietario ritiene parzialmente commerciale l'uso che fa di un immobile, non ha l'obbligo di presentare la dichiarazione ai fini dell'ICI. Per esempio, il caso di uno spazio di accoglienza alberghiera gestito da un ordine religioso, magari legato a un luogo di culto, si può dire che è parzialmente commerciale oppure no? Questo è il nodo, dice il sindaco di Reggio Emilia. Beh, se fa concorrenza alle strutture ricettive private, non è commerciale? Gli enti religiosi pensano di no, risponde Del Rio, e non dichiarano ai fini ICI, ritenendolo parzialmente commerciale. Ma il codice civile non prevede l'esistenza di un'attività mista, commerciale e non commerciale. Quindi, in caso di contenzioso, tutto viene rinviato al giudice. Sta di fatto che bisogna fare come prima cosa un censimento degli immobili ecclesiastici. C'è chi dice che valgano più di un miliardo in termini di gettiti di ICI. Bisogna avere un quadro preciso e poi bisogna superare quel concetto di interpretazione su quel parzialmente commerciale. C'è poi chi si concentra, è un momento in cui tutti dicono la loro per cercare di raccimolare dei soldi, visto che è il momento di tirare, no, la cinghia. C'è chi si concentra sulle spese militari, è un gran cavallo di battaglia per esempio per Vendola, ma anche per l'Italia dei Valori di Di Pietro. Il Secolo XIX oggi fa una pagina interessante, ufficiali, lo scandalo dell'ausiliaria, in aggiunta alla pensione 326 milioni di indennità extra. Vabbè, difesa ci costi cara. L'Italia dei Valori ha detto: ah, perché compriamo i nuovi Tornado, i nuovi aerei, sono spese militari assolutamente ingiustificate, soprattutto visto che non siamo in guerra. E secondo un emendamento anche presentato da un radicale, Maurizio Turco, c'è la vicenda dell'ausiliaria, il personale, vale a dire militare, non sarebbe sufficiente. Ogni anno la difesa spende 326 milioni di euro in ausiliaria, vale a dire il trattamento a cui possono accedere i militari in pensione, in massima parte si tratta di colonnelli e generali, che restano a disposizione. Per questo sommano alla pensione un'indennità pari al 70% della differenza tra lo stipendio fin lì percepito e la pensione. E sono 326 milioni di euro l'anno che questo onorevole dice si potrebbero recuperare. Ieri è stata una giornata, per quel che riguarda la cronaca, voglio passare a questo, assolutamente dedicare qualche minuto a questo prima di chiudere, assolutamente di successo per lo Stato, per l'arresto di Michele Zagaria. Era il latitante numero uno dei casalesi, è stato arrestato a Casa Pesenna, dove viveva in una villetta nascosto in un bunker ipertecnologico a cui si accedeva da una scaletta, una botola. Era a casa del in Vico Mascagni, zona di masserie riadattate e abusi edilizi, scrive il Corriere della Sera. Si prendeva cura di lui la famiglia di Vincenzo Inquieto, fratello dell'uomo al quale già un anno fa gli agenti della squadra mobile di Napoli smantellarono la casa, convinti che vi si nascondesse il boss, ma allora non trovarono nulla. Questo per dire quanto era sofisticato il suo tunnel, il suo bunker di 20 metri quadrati. C'è anche un disegno sul Corriere della Sera. Tra l'altro, a questo, all'arresto di Michele Zagaria dopo 16 anni di latitanza, dedica un editoriale Roberto Saviano in prima pagina di Repubblica. Il titolo è Storia simbolo per il governo. La premessa di Saviano è questa: vorrei che questa storia fosse letta dal premier Mario Monti, dal ministro allo sviluppo Passera, dal ministro agli interni Anna Maria Cancellieri. La storia è questa: Michele Zagaria era un imprenditore, è un imprenditore, è un imprenditore camorrista, non un camorrista imprenditore. Sembra uno scioglilingua, ma non lo è. Non è un camorrista che ha fatto soldi e quindi si è messo a fare impresa con denaro sporco. Al contrario, è un casalese, e precisamente di Casa Pesenna, un piccolo paese vicino a Casal di Principe, partito come costruttore, come imprenditore, e ha sempre continuato a comportarsi da imprenditore. Michele Zagaria è stata una pedina fondamentale, ad esempio, nella storia della Parmalat. Quando la Parmalat decide di fornire dati sulle vendite in grado di poter giustificare quotazioni elevate in borsa, ha bisogno di vendite sicure e queste vendite gliele garantisce Michele Zagaria. Come? Semplice. Decidono di pagare un'estorsione settimanale al boss che in cambio impone a tutti i supermercati, a tutti i dettaglianti, a tutto il mondo distributivo e commerciale di acquistare latte Parmalat. E lo fa attraverso una strategia semplice da imprenditore, non solo con le pistole puntate. Va dai grandi distributori di latte, gli propone di distribuire i prodotti Parmalat a una percentuale di sconto elevata. Accade naturalmente che tutti siano soddisfatti perché il garante di questo sconto si fa Michele Zagaria con Parmalat stesso, cioè lui decide di imporre ovunque Parmalat a un dato prezzo che deve necessariamente andare bene anche alla Parmalat. E a questo punto tutti i concorrenti di Parmalat non riescono a reggere quelle percentuali di sconto e quando solo uno ci riesce, Foreste Molisane, gli uomini di Zagaria gli bruciano i camion per il trasporto. Insomma, questa è la vicenda, l'inizio dell'articolo, della vicenda da imprenditore di Michele Zagaria, arrestato, ha detto lo Stato ha vinto, detto capa storta perché ha avuto un problema fisico che lo costringe a tenere la testa un po' reclinata, un problema artritico. Trovate anche il fatto che ad arrestarlo c'è anche, lo racconto al Corriere della Sera, c'era anche Vittorio Pisani, capo della squadra mobile di Napoli, che nel frattempo è anche indagato per rapporti oscuri con un camorrista e per questo ha il divieto di dimora a Napoli e invece era in prima fila ad arrestarlo. Come troverete, il paese in lutto, Casa Pesenna in lutto per l'arresto di Zagaria. Gente che sputa i giornalisti, gente che dice qui ci ha dato lavoro e ci ha dato successo e il parroco del paese che dice per me Zagaria è un parrocchiano come gli altri. 24 mattino. Siamo qui, ben ritrovati da Alessandro Milan, sono le 8:21 minuti, siamo in diretta anche oggi, voglio ricordarvelo. Allora oggi vi vogliamo raccontare intanto una storia che abbiamo trovato sul giornale che riguarda come protagonista un parroco, Don Marco Baroncini, che saluto. Don Marco, buongiorno. Buongiorno a lei e ai suoi ascoltatori. Allora, intanto dove siamo? Siamo a San Benedetto Val di Sambro, meglio in una frazione, vero? Sì, in una sua frazione di questo comune, Ripoli, in provincia di Bologna. Ripoli. Abbiamo letto questi titoli, un piccolo prete, piccolo nel senso che lei è un parroco di una frazione, contro i giganti di autostrade. E perché dei giganti di autostrade? Perché lì va fatta la variante, andrebbe fatta la variante di valico della Firenze-Bologna, no? Sì, questo è facile. Adesso sicuramente sono piccolo, non so se sono contro al colosso di autostrade, non è certamente nelle mie intenzioni cercare questa conflittualità, probabilmente il giornalista ha intravisto le conseguenze di certe prese di posizione. Perché autostrade, cioè lì bisogna fare, lì, ma quando dico lì vuol dire nella sua parrocchia, vuol dire dentro, se non sbaglio, la chiesa, bisogna fare dei rilievi per far passare lì l'autostrada. Cosa in realtà è ambigua, nel senso che non esiste da nessuna parte che si facciano dei rilievi dentro gli abitati per il passaggio di una galleria a 70, 80, 90 metri di distanza nel sottosuolo. Qui c'è una situazione anomala, dopo aver iniziato l'attività su spinta del comitato costituitosi hanno fatto dei veri sondaggi e si sono accorti che il sottosuolo è diverso da come era stato presentato in gara d'appalto, laddove invece sembrava tranquillo il passaggio di una galleria. Ora il passaggio della galleria non è più compatibile, lo scavo della galleria non è più compatibile col tipo di suolo e la prima conseguenza nello scatenare due frane crescenti che sono lì da millenni è quello del pericolo delle abitazioni di conseguenza degli abitanti e quindi stanno rovesciando il problema invece di verificare la compatibilità dello scavo con il versante della montagna, con l'ambiente, stanno verificando il modo di imbrigliare le case per fargli sostenere a queste case la galleria. Ma lei è espertissimo, vede, si sta facendo già una cultura, non so, anche geologica. No, ma il problema è che mi pare che una project manager di autostrade per l'Italia, sia Francesca Fatteschi, sia venuta anche a incontrarla, perché cioè, lei, se lei non dà la possibilità di fare questi rilievi all'interno, secondo autostrade per l'Italia non si può procedere. Lei che ha detto a questa project manager? È vero che gli ha detto no, io qua non vi faccio entrare? Dunque, innanzitutto io non so se questa mia decisione corrisponde a quell'effetto che lei ha detto. So che alcuni di autostrada hanno detto per colpa del diniego del parroco noi abbiamo dei rallentamenti, però questo non lo so, perché le spiego il motivo di questa sottolineatura. La stessa Fatteschi mi avrebbe a un certo punto del discorso, peraltro molto cordiale, accusato di voler ostacolare l'autostrada. Il mio obiettivo è che l'autostrada ci sia e ci sia in sicurezza. Evidentemente non è questo il tragitto perché avvenga quello che ho detto. Comunque la dottoressa Fatteschi mi ha chiesto di far entrare i loro tecnici per monitorare e io ho risposto che questa è una falsa richiesta, per il fatto che i monitoraggi nella mia chiesa sono già attivi da marzo-aprile su richiesta della sovrintendenza, quindi il monitoraggio c'è e i loro tecnici passano tutti i giorni per vedere e visionare il monitoraggio. E allora qual è? Il problema è che col falso nome del monitoraggio loro vorrebbero entrare per verificare la capacità strutturale dell'edificio, così come stanno facendo negli altri, visionando i progetti antichi, facendo dei calcoli di stress di sopportazione della struttura, così da richiedere azioni di, come dire, di attività, di imbrigliatura sulla struttura, così da permettere alla struttura di galleggiare sul movimento della frana, sì. Nel senso che se non si interviene i muri si aprono, perché comunque le strutture e le case sono in movimento con la frana, movimento di 1-2 centimetri, una casa è arrivata fino a 50 centimetri di movimento, che non è visibilissimo subito, lo si vede nel tempo se non per delle crepe subito. Se io le imbriglio prima nessuno si accorge di niente, le case si muovono lentamente ma non si aprono, e intanto loro con lo scavano passano. Capisce Don Marco che la questione è, cioè uno potrebbe leggere questa storia anche a dire che paese è quello in cui la caparbietà o i diritti che porta avanti un parroco possono fermare un lavoro così importante, ma anche purtroppo imponente. La situazione si rovescia in questo modo, ma la caparbietà non è la mia, perché credo che sia un'azione naturale di chiunque abiti in una casa, difendere la propria casa. Io ho un ruolo in più, quello di difendere una casa più ampia che tutta la comunità, ed è evidente, vista le telefonate che ricevo quotidianamente da gente che piange disperata e dice c'è rimasto solo lei, perché evidentemente le istituzioni si stanno passando il cerino e nessuno lo vuole tenere in mano. C'è rimasto solo lei e i carabinieri che stanno assistendo, indagando, presumo abbiano raccolto anche materiale abbondante e siamo tutti in attesa dell'intervento della magistratura, però sostanzialmente ho anche questo ruolo grande, sono una difende la comunità, una sorta di notav più sconosciuto fino a questo momento, no? Una sorta di... No, direi di no, perché adesso io non conosco molto bene la vicenda della TAV. Esatto, però lì mi pare che sia un intervento sull'ambiente in generale. Qui non c'è tanto il discorso non ci piace quell'autostrada, non ci piace qui. Noi l'autostrada lo vorremmo tutti e se il suolo lo permettesse la vorremmo anche sotto di noi. Il problema è che l'autostrada ha sbagliato completamente il progetto, basterebbe spostarla di poco e sta facendo un disastro a noi e all'Italia intera, perché comunque anche l'autostrada si sta muovendo e quindi molti tecnici ci dicono già che la stessa non resisterà nel tempo al movimento della frana. Chi resiste invece è lei, nonostante leggo che il cardinale Caffarra potrebbe chiedergli di recedere un attimo, dire Don Marco faccia un po', no? Ma guardi, quando qualcuno fa intervenire i superiori in scala gerarchica e non gli elementi tecnici, è evidente che il discorso è più sullo stile mafioso che sullo stile tecnico. Del resto, addirittura c'è cioè lo stile mafioso. Quando io parlando non parlo con lei, ma parlo con un suo superiore, è evidente che io non ho argomenti, ho solo l'arroganza del potere. Ma hanno chiamato, l'ha chiamata il cardinale, l'hanno chiamato dalla curia. Adesso io mi auguro che il cardinale venga scomodato e si scomodi per cose ben più importanti, non rispetto alla vita delle persone, ma su queste bagarre di protervia e arroganza umana. È evidente che alcuni tecnici hanno già provato, avvalendosi di qualche amicizia in curia, di chiedere a qualche amico di curia di farmi recedere da questa posizione, ma in realtà le dico anche molto semplicemente, da noi non funziona così. Quando qualcuno dei miei superiori viene avvertito mi chiede cosa sta accadendo, io gli riferisco la questione e se loro vedono che la cosa è giusta mi dicono procedi. Mi sostengono. Quindi da noi c'è un'attenzione alla verità delle cose, non alla gerarchia del potere. Io intanto Don Marco la devo ringraziare, prego, perché so che lei deve anche fare messa, deve celebrare messa, che lavoro e missione ben più impegnativa. Lei paga l'ICI tutto a posto? Sa che c'è questa polemica sull'ICI, domani io ne parlerò qui in trasmissione. Sull'ICI siamo messi? la cosa più interessante è che dicono che anche le attività ecclesiastiche con sfondo commerciale devono pagare l'ICI, perché non è giusto. No, a me non risulta che abbiano mai smesso di pagare l'ICI. No, già lo pagano. Quelle che hanno scopo commerciale pagano l'ICI. Questa è una grande mistificazione che va effettivamente contestata. Però quelli che non esclusivamente a scopo commerciale, quelli che hanno una forma ibrida, non si capisce, sono esentati. È lì che c'è l'inghippo, no? La legge dice che chi svolge funzione di culto non paga l'ICI. Allora, se lei mi chiede se sulla mia chiesa pago l'ICI, le rispondo no, non pago l'ICI, certo. Perché la legge dice di non pagarla. È chiaro. Ma le dirò di più, le do una notizia grande. Sì. Per un errore legato alla fede del mio predecessore è stata pagata l'ICI anche di questa parrocchia. Da 5 anni ho chiesto il rimborso e tutti a parole sì, ma non è ancora arrivato niente. Però quando vogliono intervenire loro ci mettono un secondo. Cioè, quindi non solo lei non paga l'ICI sulla chiesa, giustamente c'è la legge, ma pretende che gli diano indietro quelle che erroneamente ha pagato il suo predecessore. Esatto, su indicazione degli stessi tecnici comunali. Cioè, lo Stato chiede soldi alla chiesa, invece è lei che chiede soldi allo Stato. No, non i soldi allo Stato, sì. I miei soldi, soldi. Lo Stato non ha ingiustamente. Va bene, buona messa Don Marco, spero si possa dire. Grazie a Don Marco Baroncini, il parroco di San Benedetto Val di Sambro, frazione di Ripoli, che tiene in scacco i giganti delle autostrade per l'Italia per la variante di Valico. Noi invece ci fermiamo 5 minuti, poi parliamo di un libro che fa una fotografia impietosa dell'Italia. Secondo voi l'Italia è un paese dove vige la meritocrazia? Che, ripeto, a me fa venire l'orticaria a nominarla, mi fa venire anche pensare ai forconi quando la sento nominare. Oppure è il paese della spintarella, della raccomandazione, della conoscenza della persona potente? Allora siamo qua alle 8:36 minuti. Vogliamo parlare di un libro che esce oggi, il titolo è esemplificativo, Scurriculum, viaggio nell'Italia della demeritocrazia, edito da Liberti. Gli autori sono due, sono Paolo Casicci e Alberto Fiorillo. È un libro che racconta varie storie di come in Italia sentire parlare di meritocrazia fa veramente un po' sorridere, perché è un paese dove più la spintarella, la raccomandazione, l'amicizia altolocata, la parentela sono sicuramente più d'aiuto. Saluto Paolo Casicci, uno dei due autori. Casicci, buongiorno. Buongiorno. E saluto invece dagli Stati Uniti, in piena notte, lo ringrazio per questo, è un ritorno, il professor Antonio Merlo, che dirige il Dipartimento di Economia all'Università della Pennsylvania. Professor Merlo, buongiorno, eccoci. Buongiorno. Per noi, ovviamente. Ha lo sguardo sempre vigile anche dall'America su cosa succede in Italia e le differenze tra l'Italia e gli Stati Uniti da questo punto di vista. Senta Casicci, intanto perché questo libro, Scurriculum, e chiedo, voi raccontate tante storie in questo libro, diciamo da 0 a 100, quanto conta nelle storie che voi raccontate la conoscenza, la parentela, la spintarella, la raccomandazione percentualmente, e quanto invece le competenze generalmente in Italia? Beh, diciamo, se mi passate la battuta, la raccomandazione conta 101, nel senso che abbiamo cercato di pescare storie quanto più indicative e rappresentative di questo meccanismo molto italiano. La competenza conta ovviamente molto poco, e, insomma, pressoché nulla. Poi che dire, sì, insomma, la spintarella, abbiamo cercato anche di mettere in luce delle storie che non siano solamente la classica storia di ti trovo un lavoro perché c'è crisi, sei mio figlio, sei mio cognato, sei un mio parente, ma abbiamo cercato anche di pescare delle storie indicative di altro, cioè spesso il politico, il potente, cerca di creare una sua corte dei miracoli in cui chi lavora a contatto con lui può fare il lavoro sporco e, come dire, può fare tutto ciò che al politico non è permesso. Quindi una persona incompetente ma fidata ti permette di agire, di fare tante cose che tu politico in prima persona non riesci a fare. Quindi è la politica intanto il primo, se si può dire, possiamo puntare il dito soprattutto come colpevoli nella politica che assolutamente crea. Sì. Per esempio, un sistema che è molto diffuso laddove magari non si può dare il lavoro direttamente è quello delle consulenze. Ci sono delle storie incredibili, non so, ce n'è una per esempio sulla Viaria in Sicilia che mi ha molto colpito. Sì. Ma non solo, insomma, le consulenze sono quel mare magnum nel quale poi affonda un po' tutto in Italia. Sì, diciamo che siamo un paese di consulenti, un po' tutti potremmo diventarlo se appunto a condizione di avere, non so, un presidente di provincia, un sindaco, un direttore generale che ci chiami e ci assegni un contratto da, non so, 20, 30, 40, 50 mila euro per consegnare una relazione di qualche paginetta, che all'occasione può anche essere scopiazzata da internet. Nel libro raccontiamo la storia di questa campagna di comunicazione che la Regione Sicilia commissione qualche anno fa, durante appunto l'influenza aviaria. Era una campagna che avrebbe dovuto rassicurare i consumatori di carni avicole sull'uso appunto di queste carni. Per la verità, quando la campagna viene commissionata, il rischio aviario era già abbastanza, come dire, volatilizzato. È una campagna che propone una piccolissima agenzia di comunicazione siciliana con sede a Palermo, una campagna appunto che viene proposta all'assessorato con una banale email mandata al portavoce dell'assessore all'epoca, dell'assessore regionale alla sanità dell'epoca, del governo Cuffaro. Questa relazione viene praticamente letta nel giro di qualche minuto, viene approvata, costo dell'operazione intorno ai 100.000 euro, peccato che poi si scopre che erano le 5 paginette più o meno di campagna, erano state scopiazzate qui e là su internet. Su cioè, un copia e incolla. Un copia e incolla. Ma questo è un sistema abbastanza classico, no? Le persone che non hanno i titoli, non hanno i meriti, ma ottengono delle consulenze, magari 70, 80 mila euro, quelle cose che ti permettono di avere un lavoro per uno, due anni, tre anni. Assolutamente. E avere comunque. E tutto questo però ha un costo per la comunità. Tra l'altro, io vorrei, Antonio Merlo, andare un attimo negli Stati Uniti, allora a capire se è vero quello che lei ha detto, tra l'altro, nella prefazione del libro che è firmata da Gian Antonio Stella. Lei ha parlato di, o non so se è una sua espressione, di mediocracy, cioè l'Italia fondata, una repubblica fondata sulla mediocrità. È davvero così, Merlo? È un giudizio così impietoso? Sì, no, infatti è un lavoro che ho scritto con un collega, Andrea Mattozzi, intitolato esattamente Mediocrazia, che è sul motivo perché in politica in particolare in Italia si tende non a selezionare i migliori, ma a quella classe politica mediocre che consente ai leader dei partiti di sopravvivere. Ed è un meccanismo un po' perverso che passa innanzitutto per la legge elettorale, perché quando non sono i cittadini che scelgono di eleggere, ma i cittadini mettono al potere dei partiti e poi sono i partiti che decidono chi alla fine va a occupare determinate posizioni, quella è la radice di tutto. C'è un'idea. Non c'è nessuno di più leale che non la persona che non ha alternative. C'è un'idea di quanto possa costare, cioè c'è una stima del costo della. So che è una questione che comporta ovviamente fattori molto diversi e disparati, immagino, ma c'è un'idea di quanto possa costare questa mediocrazia? Non è tanto una questione di costi, ma è tanto una questione di un'analisi costi-benefici. I costi sono quelli del mantenere una classe politica che non è all'altezza della situazione, e quindi tutti i costi che vanno dal pagare vitalizi a incentivi a stipendi elevati eccetera, sono tutti dei costi che se fossero messi a disposizione appunto del cittadino e della nazione sarebbero investimenti anziché dei costi a perdere. Ci spieghi però come funziona negli Stati Uniti, cioè se lei negli Stati Uniti conosce il senatore di turno, il sindaco di una città, e il potente, l'imprenditore, la persona che conta, la persona che le può dare una spintarella, è un qualcosa di per sé assolutamente negativo, e condannabile, esecrabile oppure no? Innanzitutto non pensiamo che l'America è questo posto meraviglioso dove nulla di tutto ciò succede, mentre l'Italia è un posto dove succede. Direi che la cosa fondamentale è innanzitutto in Italia è un fenomeno assolutamente diffuso ed è la base per, come appunto sottolineato nel libro, è la cosa che conta di più, chi si conosce. Chiaramente anche negli Stati Uniti conoscenze sono importanti, però la differenza fondamentale è che nel momento in cui per esempio ci fosse un appalto pubblico o un lavoro che viene dato non per competenze ma per conoscenze personali, la gente è stata mandata in galera o ha perso il lavoro o è stata mandata a casa. Ci sono esempi famosi di politici ad esempio che hanno cercato di dare appalti a industrie o degli studi che sono stati fatti da parenti o da conoscenti, e questi signori sono stati mandati a casa. Per cui, diciamo, non è che il fenomeno non succede negli Stati Uniti. La cosa è che innanzitutto la base per qualunque tipo di lavoro o di avanzamento di carriera è innanzitutto la meritocrazia, sì. A differenza dell'Italia, e per l'appunto questo tipo di conoscenze, se usate in modo sbagliato, portano a essere messe anche in carcere. Sì, qui magari, ma da qui voglio ripartire dopo le informazioni sul traffico, che ne so, ci saranno delle indagini della Corte dei Conti, delle richieste per danni erariali, magari per qualche consulenza o per qualche lavoro dato a persona che non lo meritava, ma ci racconterà qualcosa Paolo Casicci. Dopo il traffico anche avremo qualche ascoltatore, ci state chiamando nonostante sia un giorno di ferie. Alle 8:47 minuti stiamo parlando dell'Italia, nostro paese, il paese della demeritocrazia, così almeno è sentenziato nel libro Curriculum che esce oggi. Siamo con l'autore Paolo Casicci, uno dei due autori, siamo anche con il professor Antonio Merlo dagli Stati Uniti. Vorrei sentire un ascoltatore, Antonio da Rimini, che ci ha chiamato. Antonio, buongiorno. Buongiorno. Volevo intervenire prima di tutto perché la trasmissione si è sviluppata su questo confronto tra questo sogno americano che effettivamente esiste, è esistito negli anni, e la realtà italiana. Ma io penso soltanto tre cose. La prima è che in Italia abbiamo una cultura della giustizia diversa e una capacità di intervento di controllo e di, come posso dire, timore dell'amministrazione, di questi controlli, inesistente. Però anche negli Stati Uniti la meritocrazia non viene rispettata, anche ai più alti livelli ci sono conflitti di interessi. Pensiamo ai casi famosi del vicepresidente americano di George Bush, Dick Cheney con Larry Barton, o al ministro delle finanze che decise conflitto di interessi è un'altra cosa. Non è tanto... Sì, però si rientra nella conoscenza e nel rapporto economico, no? Cioè il privilegiare, gli Stati Uniti hanno, le faccio un esempio di un amico. Un mio caro amico, laureato, assolutamente, diciamo, in certi campi, nel campo dell'insegnamento, un mediocre, oggi insegna a UCLA. Però qual è la sua missione? Siccome è un gran venditore, un gran tessitore di relazioni, no? Lui a UCLA, all'Università di Los Angeles, svolge UCLA, la funzione. UCLA, un po' più. Io la dico all'italiana, no? UCLA. UCLA, certo, la dico UCLA. UCLA a Los Angeles insegna praticamente, è un uomo che raccorda l'industria con l'università. Cioè insegna quindi, perché ha le relazioni, dice, insegna perché ha la capacità di trascinare l'industria nei progetti avanzati che i suoi studenti svolgono, e quindi raccoglie fondi per sviluppare questi progetti. Vabbè. E proiettare nell'industria. Quindi lei dice c'è questa esperienza di una persona che arriva a insegnare a UCLA, come dice lei, che senza avere le competenze, ma soprattutto per le sue capacità di tessere le relazioni. Grazie Antonio. Paolo Casicci, allora intanto come finiscono queste vicende che voi denunciate, vengono trovate, alcune finiscono anche in vicende giudiziarie, la Corte dei Conti ci chiede dei soldi ovviamente? Sì, per fortuna sì. Diciamo che la Corte dei Conti spesso si attiva indipendentemente da segnalazioni esposte che ovviamente possono arrivare da chiunque, anche dai cittadini. Detto questo, quando l'inchiesta parte spesso si conclude con una condanna per danno erariale, quindi chi ha nominato la persone che non andava nominata perché non aveva titolo, perché non aveva la competenza giusta, è condannato a risarcire il danno. C'è una storia che voi raccontate che si intreccia anche con la politica, con una vicenda giudiziaria anche molto famosa, quella di Giampaolo Tarantini, è un po' l'esordio del libro, no? Quando sì. C'è questa PM di Girolamo che ha un interrogatorio, che succede? Gli si presenta un politico, ci racconta. No, l'interrogatorio si presenta l'ex direttore generale di una ASL di Taranto, sì, il sì. quale racconta, sa come funziona da noi, funziona che vengono nominati prima degli incapaci, e questo direttore generale, questo ex direttore generale racconta un aneddoto. Un giorno si trovava in un pronto soccorso, incontra un politico del posto che gli dice: sai, c'è mia figlia in ospedale, ha avuto un incidente, quindi insomma sono un po' preoccupato. Il direttore generale gli dice: ma no, stai tranquillo, c'è il primario tizio, uno in gamba. Ma che in gamba? Quello l'ho nominato io, per questo sono preoccupato. Cioè, avete capito, il politico preoccupato per la figlia e soprattutto per il primario, Merlo, che ha nominato lui, sì. Certo che ha nominato lui, ha sentito Merlo, perché poi noi ci ridiamo, ma poi finisce così, cioè che vengono messi anche in posizioni apicali e magari anche delicate, in questo caso un primario di un ospedale, dunque una persona che poi ci deve curare, persone che non hanno... Deve curare anche i nostri figli, cioè se certo, noi abbiamo nominato certo. Il primario, poi ci capita di avere a che fare con lui. Non solo il figlio del politico, Merlo, questo come lo possiamo leggere? Anche questo è un costo, o meglio un costo che ci dobbiamo sobbarcare poi della demeritocrazia, o no? Decisamente direi, la cosa abbastanza triste è che è un'opportunità persa, perché se un giovane di grandi capacità si deve guardare attorno in Italia e si rende conto che non sono le sue competenze che gli aprono strade, ma sono conoscenze o raccomandazioni, anche gli incentivi a investire nel proprio, in America diciamo human capital, nel proprio capitale umano, sono ridotti. E quindi il costo principale è che le piene potenzialità delle risorse umane disponibili in Italia non vengono realizzate. E questo, dal mio punto di vista, è un costo enorme. Senta, Merlo, c'è la questione che in questo libro poi è sottotraccia, ma neanche non troppo, che queste vicende portano poi molte persone ad andare all'estero, la cosiddetta fuga dei cervelli o la fuga dei talenti. Ecco, Merlo, lei in America perché? Cioè, è legata alla sua vicenda a qualche strada? Esattamente per questo motivo. Io sono laureato alla Università Bocconi nel 1987 e, avendo voluto essere un accademico dall'inizio, perché questa era la mia carriera, nel momento in cui mi sono guardato intorno e mi si prospettavano possibilità di portare borse o di incominciare a insegnare il corso di qualche altro docente ordinario, piuttosto che a incominciare a essere introdotto nel mondo accademico, ho lasciato e ho detto: io voglio andare in America, non tanto per altri motivi, per non sapere quanto bravo sono, e l'America ti dà queste possibilità di realizzare il proprio potenziale, e non sono più tornato. E su questo... Sono ordinario ormai da 11 anni alla University of Pennsylvania, questa è la realtà dei fatti. E questa forse è, Casicci, per concludere, la cosa più triste che voi sottolineate nel libro, che poi queste vicende si possono leggere anche col sorriso sulle labbra, se si vuole, però comportano poi che molte persone con talento in Italia debbano andare altrove per affermarsi. Sì, un sorriso amaro. Il costo di cui parlavamo prima, se volessimo quantificarlo, è questo, un costo, come dire, diffuso, non è un costo in milioni, è un costo umano, se vogliamo, cioè si potrebbe quasi fare una class action, sono i cervelli italiani che devono andare via, ma non devono essere necessariamente dei cervelli per andare via, anche nella media età in Italia si è costretti spesso, per svolgere il lavoro per il quale si è studiati, per il quale ci si è formati, bisogna andare via o dalla propria città o addirittura anche dal proprio paese. Io allora, nel concludere, voglio ricordare il libro Curriculum, viaggio nell'Italia della demeritocrazia, edito da Aliberti, lo trovate tra l'altro in libreria proprio a partire da oggi. Gli autori sono Paolo Casicci, che è stato con noi, insieme ad Alberto Fiorillo. Saluto anche il professor Antonio Merlo, lasciamo nella continuazione della sua notte dalla Pennsylvania, per essere stato con noi dagli Stati Uniti. Che dire, tra l'altro una precisazione, perché dice, forse mi sono espresso male, io non è che sono contro la meritocrazia, quando dico mi viene l'orticaria a sentirne parlare, perché mi verrebbe da arrabbiarmi con sentirla pronunciare impunemente da molte persone che poi magari la meritocrazia non la applicano. E allora ci fermiamo con Alessandro Longoni in redazione, Elisabetta Fusconi anche, e il nostro Carmelo Lauricella oggi in regia. Ci fermiamo qui e ci troviamo domani alle 7:20.